nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.33, tramonterà alle 18.10. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I titoli. Le intenzioni di semina e l'andamento della stagione dei mercati agrari nel servizio di apertura. La riproposta di corsivi di Licio Damiani oggi ci porta nelle tradizioni delle notti di novembre. La lunga storia, la provenienza e le virtù dei fagioli nella rubrica del bio. Le sostanze che influenzano il colore e il gusto del vino durante la macerazione dei pigiati. La betulla di Curiedi, protagonista della rassegna dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia. La zucca, accenni storici, nuove valenze e vecchie ricette che la vedono protagonista. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del meteo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Due volte all'anno Vita nei Campi ospita Daniele Castagnavis, presidente della cooperativa agricola Granaio Friulano e di Conf Cooperative regionale. Con lui analizziamo le intenzioni di semina per la prossima stagione, facciamo anche un po' di bilancio di come è andata quest'anno. Il mais, a parte le disgrazie ambientali, quest'anno dovuto soprattutto alla grandine, agli eventi atmosferici diversi dalla siccità, perché quest'anno ha piovuto, le produzioni sono state buone, dove il tempo ci ha dimostrato clemenza. Sulla soia ci stiamo difendendo abbastanza bene, quest'anno tutta la soia seconda raccolta andrà a produzione rispetto all'anno scorso, dove la siccità aveva compromesso invece questi raccolti, per cui ci difendiamo abbastanza bene. Cosa andranno a seminare gli agricoltori quest'anno? In questo momento sulle previsioni dei semi dell'autunno-invernini domina certamente l'incertezza. L'incertezza dovuta al calo repentino dei prezzi dei cereali, all'immobilismo di un mercato che da mesi non si muove, specialmente su orzo e frumento, per cui a questi prezzi la gente si chiede semino o non semino, tenendo conto anche che invece il valore dei mezzi tecnici è rimasto praticamente invariato, se non un calo sui concimi azotati. Certamente comunque qualcosa si seminerà, perché la PAC porterà a far sì che la diversificazione culturale, quindi la rotazione, diventerà un obbligo. Le previsioni sono più o meno di un leggero calo, secondo me, delle superfici destinate a grano e orzo. E la stessa cosa possiamo dire per la colza. Queste sono le colture invernali preminenti sul nostro territorio. Colture alternative ce ne sono a orzo e a grano? Sulle colture autunno-invernine direi di no. Queste sono le colture, oltre al colza, non direi che ci siano tantissime alternative a queste, ecco. Variabili, per esempio qualcuno che ritorna a far foraggere? Ci sta, però tutto è condizionato dal fatto che ci saranno stalle, punto di domanda, e qui introduciamo quante stalle chiudono, quante aprono. Questo è un eufemismo, perché negli ultimi anni stalle che hanno aperto ce ne sono veramente, possiamo contarle sicuramente meno delle dita di una mano, mentre quelle che chiudono ogni anno ce ne sono, e quindi il calo dei foraggeri è dovuto anche a questo. Rimanendo sulle colture alternative, come è andata la stagione che si è appena conclusa? Sulla coltura alternativa quest'anno c'è stato un buon risultato sul girasole. Il girasole aveva avuto un aumento di superficie importante, soprattutto nelle zone non irrigue, di conseguenza poi, avendo piovuto, i raccolti sono stati anche sufficientemente discreti, per cui bene. Quest'anno è la prima volta che vedo un sorgo di qualità, abbiamo raccolto finalmente un sorgo bianco, che bianco è, perché negli altri anni molte volte si anneriva a causa della pioggia o delle raccolte tardive, ce n'è ancora un po' di raccogliere. La pioggia fa sì che anche colture così dette alternative, che si prestano a annate siccitose, risentano positivamente della presenza dell'acqua. Quest'anno più o meno eventi piovosi ne abbiamo avuto tutta la stagione, per cui anche queste colture ne hanno tratto giovamento. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei Campi, Storie, Memorie e Leggende della Campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo La Notte di Samaini, in onda il 27 ottobre del 1996. Legge Rita Micoli. Finisce una stagione agraria e inizia quella nuova. Viene seminato il grano, scende agli inferi, nel cuore della terra, e comincia la sua lenta germinazione. Vita e morte si confondono nel ciclo cosmico. Con questo spirito i Celti celebravano il loro capodanno. La divisione dell'anno celeste in base ai solstizi era stata preceduta, infatti, in base ai cicli produttivi della campagna. Per i Celti il Capodanno era chiamato Festa di Samhain. Venivano accesi grandi falò dai quali si traevano presagi, come in Friuli all'Epifania. La notte i morti tornavano dai campi ormai brulli, dai boschi spogli, nelle loro vecchie case a cercare conforto intorno al focolare. Insieme ai morti volavano le streghe in groppa a gatti neri come il carbone. Scendeva su tutto un alone di mistero, ma la notte di Samhain era anche la più giocosa dell'anno. I contadini mascherati si recavano nelle necropoli e attendevano l'alba tra canti e libagioni. Un'eco di quel clima si è mantenuta nei paesi anglosassoni con la festa di Halloween, che da alcuni anni va diffondendosi anche da noi. I ragazzi si travestono da scheletri per mimare il ritorno dei morti. Le grandi zucche scavate e trasformate in faccioni evocano apparizioni tra l'horror e il grottesco. Proprio per contrastare la millenaria tradizione pagana, la Chiesa di Francia nel 998 istituì, per decisione dell'abate di Cluny, la festa dei santi e la commemorazione dei defunti. Le due solennità arrivarono a Roma soltanto nel XIV secolo. Oggi l'anima cristiana torna a confondersi con le remote radici pagane. Un lungo filo unitario accompagna, sia pure in forme storiche diverse, il cammino dell'uomo. Storia e virtù dei fagioli che non tutti conoscono. Ce ne parla Cristina Micheloni nella rubrica del bio. Lo diamo per scontato e per cittadino friulano da sempre, il fagiolo propriamente detto, però è arrivato in Europa dal Perù, dove veniva coltivato dal 5000 a.C., verso la fine del 1500, trasformandosi da coltura tropicale a coltura adatta ai climi temperati europei e diversificandosi in una miriade di tipologie diverse per forma, colore e caratteristiche della pianta e quindi adattabilità ai diversi territori. La storia dell'introduzione del fagiolo in Europa e in Italia è assai avvincente. Si pensi che per secoli il fagiolo di Spagna venne usato solo come ornamentale, essendo rampicante e ben si adattava a decorare con i suoi bei fiori terrazze, pergole e dehors. In Italia il fagiolo ha iniziato ad avere un certo successo di coltivazione e anche di utilizzo solo nel 1800, scalzando i vecchi fagioli, ovvero le vigne, i ceci, le favole e le lenticchie, grazie alla di gran lunga maggiore produttività. In Francia diviene cibo comune per le classi meno abbienti con la rivoluzione. In Italia un ruolo fondamentale nell'introduzione del fagiolo lo ha svolto Papa Clemente VII, che essendo toscano, erano dei Medici, lo promosse inizialmente nella sua regione, ma ne regalò pure un sacco a Pietro Valeriano, canonico bellunese, da cui deriva la tradizione dei fagioli di Lamon. Questo primo sacco di fagioli diede vita a un'economia molto fiorente per tutta la pedemontana veneta, ma anche l'area montana e pedemontana friulana non ha scherzato affatto. Basta dare un'occhiata alle tante e belle varietà sulla cui caratterizzazione e conservazione ha lavorato la banca del germoplasma autoctono del Friuli Venezia Giulia, gestita dall'Università di Udine, che si possono conoscere anche attraverso il sito dell'ERSA. Nel fagiolo la diversità è fortunatamente amplissima. Il genere Phaseolus comprende 36 specie e più. Quelle coltivate in Europa derivano da tre di esse, il fagiolo comune, il fagiolo di Lima e il fagiolo di Spagna. In questa settimana sta avvenendo la raccolta di tante varietà, ecotipi e miscugli coltivati in Friuli Venezia Giulia ed è un vero piacere per gli occhi, per il gusto e anche per l'intelletto. I principali produttori mondiali di fagioli sono l'India con 6 milioni di tonnellate, la Birmania quasi 5 milioni di tonnellate, seguiti da Brasile, USA e Cina. In Italia se ne producono 12.000 tonnellate, ma se ne consumano molti di più. In buona sostanza dipendiamo per il 90% dall'importazione. Nella nostra regione la produzione è pressoché aneddotica in termini di quantità. Di come si mangia il fagiolo credo non serva dire nulla, solo ricordare che alla categoria appartiene anche il fagiolo mangiatutto, ovvero cornetto, fagiolino, per capirci, di Wainis. Recenti sondaggi ci mettono in luce un aspetto da tenere presente. L'italiano mangia fagioli solo se altamente processati. Cosa vuol dire? Se li compra già puliti, cotti e pure conditi. In tali condizioni sapere da dove vengono, chi li ha coltivati e come è difficile e forse nemmeno gli interessa. Tanto per continuare a piccolare i luoghi comuni. La coltivazione consociata di mais e fagioli, ovvero dei fagioli che si arrampicano sul mais che funge da tutore, con tutti i mutui benefici in termini di azoto, controllo malerbe, riduzione infestanti e via andare, non è invenzione friulana, ma pratica comune nelle Americhe diverse centinaia di anni prima. Allo stesso modo, un qualche tipo di polenta di mais e fagioli erano comuni sui deschi americani ben prima che sulle tavole friulane. Cosa influenza il colore rendendolo più stabile e il gusto attenuando le note dure tipiche dei vini a fine fermentazione? Ne parla oggi per la rubrica del vino il professor Roberto Zironi. Col procedere della vinificazione, al diminuire delle attività enzimatiche, le reazioni chimiche prendono il sopravvento. Fin dai primi momenti della fermentazione alcolica e durante tutta la fase di affinamento, reazioni chimiche tra gli antociani e le varie componenti fenoliche formano molecole complesse che influenzano il colore, rendendolo più stabile, e il gusto, attenuando le note dure tipiche dei vini a fine fermentazione. Gli antociani durante la conservazione del vino diminuiscono perché assorbiti dai microrganismi, per degradazione ossidativa o perché precipitano con proteine, polisaccaridi, tannini, condensati e con il bitartrato di potassio. La principale riduzione del contenuto di antociani è però legata alla formazione progressiva e irreversibile di pigmenti più complessi e stabili derivati dagli antociani, come vari piroantociani o antociani polimerici prodotti dalla condensazione tra antociani e tannini. I piroantociani, chiamati vitisine, si formano dalla reazione tra antociani e metaboliti del lievito, come acetaldeide ed acido pirubico. La massima formazione si realizza durante la fermentazione alcolica. Nei vini in cui la fermentazione malolattica consuma l'acido pirubico e l'acetaldeide, la produzione di questi coloranti è evidentemente limitata. Reagendo con i tannini, gli antociani, favoriti dall'ambiente acido e dalla presenza di ossigeno, si trasformano in una vasta gamma di pigmenti chiamati antociani polimerici. Dato che gli antociani e i tannini competono in molte reazioni, il rapporto antociani-tannini determina le proporzioni relative dei composti derivati da queste reazioni. Questo rapporto nel vino non dipende solo dalla varietà di uva e dal suo grado di maturazione, ma anche, come vedremo, dalle condizioni di macerazione. La reazione antociani-tannino può essere sia diretta che coinvolgere l'acetaldeide. In quest'ultimo caso si producono pigmenti color porpora che sono molto più resistenti all'ossidazione degli antociani presenti nell'uva. L'acetaldeide è un prodotto del metabolismo del lievito e come tale sempre presente in piccole quantità nel vino. Viene formata anche dall'ossidazione dell'etanolo, così che la sua concentrazione cresce in seguito all'esposizione del vino all'aria. La conversione degli antociani dell'uva a pigmenti color porpora legati all'acetaldeide viene quindi favorita dalla microossigenazione. Tutti i pigmenti derivanti dagli antociani sono strutturalmente diversi dalle molecole originarie. Sono più stabili ed hanno caratteristiche sensoriali diverse. Essi rappresentano il 50% del colore entro il primo anno di produzione e aumentano proporzionatamente nel tempo. L'esposizione controllata all'ossigeno durante la fermentazione e la maturazione è una tecnica che può essere utilizzata per favorire la formazione di pigmenti polimerici ed accelerare la stabilizzazione del vino. La Betulla di Curiedi è la protagonista oggi della rubrica sui grandi alberi del Friuli Venezia Giulia che ci cura l'ispettore della forestale Dario Di Gallo. A nord della conca tolmezzina si dispiega un intrigante paesaggio composto da piccole frazioni ancora abitate, pianori erbosi, dolce cime prative e vertiginose forre rocciose, che culmina nella bella e panoramica cima del Monte Arvenis. Da Tolmezzo si seguono le indicazioni per le frazioni di Caneva e Fusea. La singolare ma ripida strada, con una vista che si fa sempre più ampia, conduce sui bei curati prati e coltivi di Plan di Curiedi. Tra gli stavoli, a sinistra della carreggiata, nei pressi di un boschetto di abeti, si trova, di fronte a un magnifico panorama, la nostra betulla. Albero molto attraente per la sua corteccia candida, simile a una pelle che si stacca in strisce sottili come carta. Un'ampia chioma globosa, con lunghi rami, dalle cime flessuose e cascanti, e delicate foglie leggere e vibranti, che d'autunno brillano di un giallo dorato. La sua età stimata è superiore agli 80 anni e la sua circonferenza supera i 2 metri. L'altezza si situa intorno ai 20 metri. È una specie che tollera benissimo il freddo, non molto longeva, ha bisogno di molta luce e vive anche in suoli poveri. dalle dimensioni sempre contenute, si distingue per il suo portamento elegante, dalla luminosa ariosità. Pochi alberi come la betulla rivestono, presso le popolazioni in cui si radicano, i suoi esemplari, un così grande significato sia pratico che culturale. Chi la utilizza per riscaldare la propria casa ne apprezza la facilità al taglio e la bellezza senza pari della fiamma che sprigiona. Innumerevoli sono pure i suoi utilizzi in farmacopea, diuretica, febbrifuga, digestiva, purificatrice dell'organismo per eccellenza. In Scandinavia se ne estrae uno zucchero e si usano delle foglie per sfregarsi il corpo e stimolare la circolazione durante il rito della sauna. Dalla sua corteccia si fabbricava la carta, si intessevano vimini, si costruivano calzature. Venerata per i suoi innumerevoli benefici, riveste con il suo aspetto il simbolo della luce e della rinascita primaverile. Un albero della luce, dunque, sfavillante contro i cieli blu dell'inverno, dona il meglio di sé nelle brillanti giornate autunnali con il vento che fruscia le foglie ormai secche. E questo è un invito alla sua visita. La zucca ha assunto negli ultimi anni nuove valenze, vedi Halloween. Rimangono però ben saldi i suoi utilizzi in cucina. Uno di questi è la zuppa, della quale oggi ci parla Roberto Zotta. Sope o zuff di cavocce, ovvero zuppa di zucca. È arrivato finalmente il freddo autunnale che ci invita a consumare castagne, ribolla e zucche. Nei secoli intorno alla zucca, già apprezzata dai romani, si moltiplicarono credenze e superstizioni, ciò forse per l'estrema velocità di come si sviluppa la pianta e crea frutti di grandi dimensioni. Nel tempo si perse anche l'utilizzo della polpa a favore dei soli semi che venivano tostati. La zucca acquisì così la nomea di frutto vuoto, capace di offrire solo pochi semi, e da qui pare sia nato il modo di dire zucca vuota, ad intendere una persona poco furba. La storia della zucca in Europa cambiò poi drasticamente intorno al XVI secolo con l'importazione d'oltreoceano delle zucche tonde e arancioni che rappresentano oggi lo stereotipo del frutto. Per i nostri bambini sono uno dei simboli di Halloween, antica festa celtica legata ai riti del Samhain che metteva fine alla stagione estiva e inaugurava l'anno nuovo in corrispondenza del 1° di novembre. La ricorrenza pagana venne poi assorbita dalla religione cattolica con la nascita di Ogni Santi, mantenendo l'usanza di accendere fuochi propiziatori contro le sventure durante la notte antecedente il 1° di novembre. In origine si intagliavano grosse rape per trasformarle con una candela in lanterne per proteggere la casa dai demoni. Poi, quando la festa di Halloween fu importata dagli irlandesi negli Stati Uniti, si cominciò a utilizzare la zucca, più grande e più facile da lavorare. Nacque così la tradizione della zucca di Halloween, contrazione dall'inglese All Hallows Eve, cioè la vigilia di tutti i santi. Per un zuff di zucca, mondate 400 g di zucca da semi e scorza e cuocetela al forno a 150 gradi per 30 minuti. Passatela al setaccio ed unitela ad un soffritto di 50 g di burro ed una cipolla tritata. Aggiungete mezzo litro di latte e mezzo di acqua, salate, versate poi 50 g di farina 00 e 50 g di farina di mais, mescolando energicamente con una frusta e portate a cottura per 20 minuti. Servite la zuppa bollente con a parte una ciotola di latte e panna freddi. Però, più che alla zucca di Halloween, mi piace pensare ai nostri vecchi che la sera di Ogni Santi, dopo un'insalata condita con lardo soffritto e balotis, cioè castagne lessate, e dopo aver condiviso il pagnut dai moires, il tipico panetto semidolce con uvetta, recitavano il Santo Rosario e il De Profundis, seduti attorno al fogolar per ricordare i poveri defunti, tra un gotto e l'altro del fermentante vino nuovo. Mentre le ore passavano ed il vino nei boccali di terracotta scemava, più d'uno pensava tra sé e sé: cui calmur il mund lassa, cui calviv al si la passa. Buon appetito. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,90 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa. il frumento tra 21,20 e 21,70, l'orzo peso specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20 e la soia tra 40 e 40,50. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 11,90 euro il quintale e la soia di 19,70. Leggera flessione nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 2,95 e 3,45 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,20 e 2,80. Prezzi stazionari nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi che vengono quotati tra 6 e 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,40 e 5 euro, i frisoni tra 2 e 2,20, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. In lieve calo ancora il mercato dei suini, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,90 euro il chilo IVA esclusa, e i grassi da macello a 2,08. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo in ribasso tra 49 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, ancora cenni di pesantezza con prezzi diversificati nel settore degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,69 a 1,71, i conigli oltre 2,5 kg da 2,82 a 2,88 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Gabriele Fasano diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. La seconda decade di ottobre si è aperta all'insegna dell'anticiclone nordafricano che ha mantenuto tempo stabile e caldo record per quanto riguarda le temperature ad alta quota e del mare, mai così caldo almeno dal 1900. In pianura invece prevalgono le inversioni termiche, con umidità nei bassi strati. Tra il 14 e il 15 ottobre un fronte atlantico cambia la situazione, portando rovesci temporali soprattutto sulla fascia orientale e un ricambio della massa d'aria che diventa decisamente più fresca. Dal giorno 16 al 18 il tempo è stabile con temperature fresche, anche sotto la norma del periodo, con le prime minime sotto zero in montagna. Il mare scende sotto i 22 gradi. La decade si chiude con la forte perturbazione del 19-20 ottobre, che porta piogge intense su diverse zone, temporali e vento forte soprattutto in montagna. Per quanto riguarda i prossimi giorni, oggi e domani avremo prevalenza di tempo stabile, anche se con un po' di nuvolosità, per la temporanea rimonta dell'anticiclone. Le temperature massime saranno attorno ai 20-22 gradi e anche le minime non saranno basse. Tra martedì e mercoledì una nuova saccatura atlantica potrà causare l'afflusso di forti correnti umide e instabili sud-occidentali in quota. Sarà quindi probabile un altro episodio di piogge diffuse che potranno essere complessivamente abbondanti o intense sia martedì sia mercoledì. Martedì soffierà scirocco sostenuto sulla costa e anche su parte della pianura. Mercoledì il vento girerà più da libeccio. In montagna sarà possibile avere venti forti da sud-ovest in quota e saranno possibili anche temporali. Sulla costa sarà da valutare la possibilità di mareggiate e acqua alta, anche per la fase lunare più favorevole. In seguito potranno esserci un paio di giorni con tempo più stabile, mentre l'evoluzione verso la fine della prossima settimana rimane ancora incerta. In ogni caso sembra prospettarsi una fase piuttosto dinamica, senza strutture sinottiche dominanti per tempi prolungati. Per conoscere l'evoluzione aggiornata di giorno in giorno, vi invitiamo a seguire tutti i dettagli sul nostro sito. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. San Donat alle Acividat. Proverbio strano che indica come San Donato, che si celebra anche oggi assieme a San Giovanni Paolo II, è venerato a Cividale. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.